Una buona sera a tutti e rieccovi benvenuti per la puntata 13 di Geek Cookies. Questa sera abbiamo una palette di host allargata. Stasera abbiamo di nuovo il nostro buon Francesco con noi. Buonasera. Ciao a tutti e bentornati in questo secondo anno di Geek Cookies. Giusto. Buon anno a proposito. E abbiamo pescato dal nostro pubblico, dei nostri accanitissimi fan, un nostro ascoltatore con cui abbiamo già interagito molto, il buon Giuliano. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie per essere con noi e stasera farei per noi l'esperto sul topic della puntata, che è un piccolo chip che nell'ultimo annetto ha rivoluzionato il mondo dell'IoT, diciamo. Quindi, se non avete niente da, non so, dire ai nostri ascoltatori prima di tuffarci nella puntata, io direi che possiamo anche andare avanti. No, direi che possiamo proprio partire e andare subito a bomba sul progetto. Vorrei soltanto dire che questa è una delle due puntate di questo mese, perché abbiamo deciso di cambiare leggermente il format della trasmissione. Questa puntata sarà incentrata solo su un argomento e la prossima sarà quella relativa alle chiacchierate varie, quindi se va tutto bene e non capita come il mese scorso, che ancora sono lì che mi viene su il nervoso, se ci penso, dovreste avere nei vostri feed due puntate in questo mese a distanza di due settimane. Esatto, però diciamo che cercheremo di limitare i tempi. In totale saremo con lo stesso tempo, però ognuna sarà un pelo più corta, perché sennò... Sì, dovremmo fare un'ora e un'ora l'una. Esatto. Speriamo, però comunque l'intenzione è quella. D'accordo, okay? Perfetto. Allora... Possiamo cominciare. Perfetto. Allora, come vi stavo dicendo, l'argomento principe di questa puntata sarà l'ESP 8266, perché io non ho mai sentito questa sigla. Possiamo dire che è un piccolo chip realizzato dalla Giuliana, la Express If, se non sbaglio, è la casa che l'ha tirato Express Giuliana. If, esatto. Sì. Che esatto. Sono cinesi, ovviamente. Come tutte queste cose. Ok, quindi vuoi cominciare a darci una panoramica su cos'è questo chip, perché è diventato importante? Sì, allora, intanto il chip che cos'è? È un SoC, cioè un system on chip, praticamente racchiude diverse funzionalità tutte in un chip, quindi ha principalmente la funzionalità Wi-Fi, per cui può essere un access point o un client della nostra rete Wi-Fi. Supporta la crittografia WPA, WPA2, quindi con un'adeguata sicurezza verso quello che sono i collegamenti. Poi ha diversi ingressi e uscite GPIO, cioè quelle per dire che su cui siamo abituati sull'Arduino, quelle per fare l'input-output dei segnali, di cui una di queste è anche una uscita analogica, uscita e ingresso analogica, per cui... diciamo che ha la possibilità di connettere diverse cosette. Tra queste può connettere dei dispositivi I2C o I2C, come lo vogliamo chiamare, che è un sistema per la comunicazione con diversi dispositivi. Poi ha anche l'SPI, anche questo metodo di comunicazione con vari dispositivi. Alcuni GPIO hanno il PWM, cioè il Pulse Width Modulation, per modulare la tensione in uscita, per ad esempio far andare più o meno veloce un motorino per della molto in breve. Yeah, anche i LED, per esempio. Sì, esatto, per regolare varie cosette. Il chip è discretamente più veloce di un Arduino come clock, perché va di solito ad 80 MHz, ma può essere overclockato, diciamo così, fino a 160 MHz, che non è proprio una velocità da bidone, insomma. Ti interrompo un attimo, sì. Ma se io lo overclocco e lo uso così sempre, rischio che il chip poi degeneri in fretta, oppure l'hardware supporta bene l'overclock? Allora, quello che dice la fabbrica è che l'overclock viene supportato per tempi non lunghissimi, cioè se hai bisogno di fare qualcosa velocemente gli dai un burst e lo fa andare velocemente e poi lo riporti ad una velocità normale. Anche perché tra l'altro non è semplice mettere su un'aletta di raffreddamento perché non è esattamente accessibile. È molto integrato. Per cui insomma diciamo che al momento io non ho mai trovato la necessità di portarlo ad oltre 80 MHz. Quale sia la necessità di farlo, anche questa la ignoro, però la possibilità di farlo c'è, ok? Scusami, per curiosità, volendolo cioè, tu dicevi uno può fare un burst, ma per attaccare, cioè per cloccarlo, lo posso fare da qualche programma oppure devo riflashare firmware? No, si fa via software, soprattutto quindi con... è semplice, ok. Sì, è abbastanza semplice. Ok. Diciamo che il chip in se stesso ha poca memoria, nel senso che ha 64K di ROM, 64K di RAM per le istruzioni e poi avrebbe una 96K di RAM per i dati, diciamo, per la gestione. Se non che, fortunatamente, viene accoppiata una EEPROM da diverse capacità che parte da 512K fino agli ultimi modelli che ne hanno 4 mega. Beh, voglia, spazio. Con 4 mega puoi scrivere tutto il codice che vuoi e puoi memorizzare sì. Tutti i dati che ti pare, direi. Guarda, penso sì, che 4 sì. Mega ci posso scrivere tutto il codice che ho mai scritto nella mia vita e metterlo tutto là, solo il codice. E ci va. Diciamo che lì bisogna un attimo preoccuparsi. Allora, il discorso qual è? A seconda del firmware che tu usi, hai un tot di memoria occupata dal firmware stesso, tipo NodeMCU che occupa un massimo credo di 500 e passa K, quindi c'erano delle difficoltà sostanziali per esempio nei modelli più piccoli a far andare poi molto codice tutto in RAM. Okay. Mentre invece adesso hanno un po' aumentato, quindi insomma si riesce a lavorarci meglio, insomma. Diciamo, scialiamo quello spazio, non abbiamo problemi. Ok, senti, un'altra domanda che penso che l'uomo medio si faccia, chi non ha mai sentito parlare di questo chip, qual è, diciamo, il bisogno che questo chip copre, perché è stato creato fondamentalmente e per cosa viene utilizzato? Diciamo che sono due cose diverse, cioè quello per cui è stato creato era apparente per l'Arduino, no? Per farlo da come ponte wireless. Ma dunque, diciamo che sostanzialmente, secondo me, l'hanno pensata per sì, all'inizio come un ponte tra la seriale e il Wi-Fi. Uh-huh. E infatti, alla fine, il primissimo chip che è venuto fuori aveva proprio questo tipo di scopo. Infatti, che è l'SP01, ha praticamente due sole GPIO disponibili sul, diciamo, nella breakout che è integrata con il modulino, è giusto il collegamento con la seriale e l'alimentazione, non aveva nient'altro, per cui sì, quello era secondo me la loro intenzione primaria. Quindi praticamente lui è partito come essere un banale transceiver sì. da seriale over wifi, punto. Sì, giusto? Guarda, per dirti una curiosità, io sono arrivato all'SP01 perché ho sbagliato a comprare degli NRF24. Perché che sono? Che sono dei sistemini, dei transceiver che si usavano e che si usano per comunicare a 2,4 GHz con dei sensori, insomma, fanno proprio l'interfaccina tra la seriale e il 2,4 GHz, dall'altra parte ne metti un altro e comunicano due Arduino, come se mettessi due trasmettitori a 433, che si okay. usavano anche sì, quelli, sì, sì. Insomma, fa questa cosa qua. Essendo praticamente identico come form factor tra l'NRF e l'SP01, sbagliando comprai l'SP01. Quando arrivò, caspita, ma che cosa ho comprato? Allora, una ricerca veloce mi ha portato subito, tra l'altro era uscito neanche forse un paio di mesi quando l'ho preso, quindi insomma, ho seguito un attimino tutta l'evoluzione e siamo arrivati al fatto che ormai è diventato un diciamo concorrente, non è esattamente la parola corretta, ma concorrente di Arduino, perché a parte il costo, perché se vogliamo dirlo costa veramente veramente una fesseria, cioè stiamo parlando di $3 forse, ma sì, dipende anche... dalle quantità e lo puoi trovare esatto anche... si trovano a anche a $2.50 sì. Insomma a questi cioè, livelli qui spiccioli. Sì, e poi tra l'altro perché è venuto fuori quando Arduino in pompa magna buttava fuori una shield wifi che costava $50, mi pare, una cosa del genere. Assurdo. Beh, ma c'è Arduino poi che è uscito con lo Yun, che è wifi, cazzi e mazzi, ma da solo lo Yun fa €60, quindi... Esatto, ma il punto fondamentale, scusatemi, è che volevo parlare prima, è che fondamentalmente l'Espo si è imposto come, diciamo, mezzo fondamentale per l'IoT oggi, sì, soprattutto perché non costa un cazzo, quella è la cosa fondamentale. Cioè $2 certo. Io lo posso prendere, come dicevo Francesco prima, se io lo overclocco anche a 200 Hz e lo brucio, io ne compro 100, che me ne importa, cioè li ma brucio infatti. Come si ammette. Sì, direi solo che c'è una cosa particolare, a due dollari lo si trova sul mercato cinese, il mercato cinese non ha grossi difetti tranne quello della consegna che è a 60 giorni. Beh, ho capito. Se lo voglio subito su Amazon, l'ESP 8266 fa 10 vabbè, euro. Ma è come Raspberry Zero, se lo vuoi subito lo paghi $100. Ma no, ma lì è un'altra cosa, lì è perché ce n'è pochi e sì, c'è la gente che ci marcia perché se aspetti 1 o 2 mesi, secondo me ti tireranno dietro. Quelle sì, però il fatto è che se io sto facendo il mio progetto e ne ho bisogno di uno e mi serve subito, comunque l'unico modo è spendere 10 euro. Sì. Non è una follia, cioè no. Se ho no, una cosa aspetta. A lungo termine... Però pianifichi, diciamo, un mese ti arriva neanche. No, ma infatti, guarda, il discorso è anche un altro, che adesso ci sono anche dei... fornitori cinesi, diciamo dei grossisti che comunque hanno anche dei magazzini qui in Europa, sì, Olanda eccetera. Esatto, che ma voglio arrivare a dire, cioè una dev board tipo il NodeMCU che su AliExpress puoi trovare a $5, lì magari te la fanno pagare €7, ecco, però voglio dire, se ti serve tra $5 e €7 e averla in 10 giorni piuttosto che in 60, beh, insomma, la differenza fa la differenza, esatto. Poi non sai mai la dogana, cioè è sempre un casino comunque quando questo ordini dalla, però diciamo dalla Cina. Se pianifichi un secondo, tipo come ho fatto io, ho comprato una Node MCU e poi scoprendo di dopo tramite Giuliano ho preso quella sbagliata comunque, come al solito, però diciamo tu prendi una board già fatta tipo in Europa, in America, anche quelle di Olimex, Adafruit, ce ne sono un sacco, sì. Te ne prendi una così ti fai i tuoi esperimentini e intanto ti ordini un pacco di 20 chip, di 20 board basiche per potertele poi saldare come vuoi tu, quindi diciamo te ne prendi una come dev board all'inizio e poi quando hai capito cosa ci vuoi fare te le ordini, lo fai già prima così ti arrivano intanto che fai i tuoi esperimenti e poi ti crei il PCB che vuoi tu oppure saldi i sensori o i motori o quello che vuoi dopo, certo. Quindi secondo me non è così assurdo come mercato per adesso, va abbastanza bene, ma comunque ripeto, poi si trovano anche relativamente a prezzi abbastanza competitivi anche in Europa adesso, cioè c'è stato una bordata di gente che ne aveva comprati un tot e poi li vendeva a prezzi assurdi, ma mi sembra la stessa saga dello zero che stiamo vivendo in questi giorni, insomma. Parliamo anche per chi capisce poco, perché io mi sono perso a un certo punto. La dev board che cos'è, a che serve? Ah, ecco. Vabbè, aspetta, allora. Facciamo le cose in ordine perché sennò ci incasiniamo. Stavamo dicendo, la domanda che avevo fatto prima io, perché abbiamo detto perché è nato più o meno, perché uso alla fine è stato destinato, cioè cosa ci fanno le persone attualmente, poi arriviamo a spiegarvi a livello hardware come sono fatti, che abbiamo tutto in scaletta tranquillamente. Sì, allora che cosa ci fanno le persone adesso? Tutto. Potrei fare un parallelo su quello che che si fa con un Arduino, cioè più o meno con più o meno qualche difficoltà in più o in meno si fa tutto quello che si fa con un Arduino. Principalmente si usa sicuramente per progettare dei sensori o comunque delle cose che comunicano con altre cose. l'esempio dell'IoT è quello più calzante, nel senso, volendoci posso attaccarlo alla lavatrice e farmi dire quando sta facendo la centrifuga o quando ha finito di fare il lavaggio, no? Esatto, a questi livelli qui, quindi il costo e comunque la facilità anche di integrazione con le varie cose, perché comunque teniamo presente che si può utilizzare con diversi tipi di ambienti e di linguaggi. Diciamo che quello con cui si è partiti è NodeMCU, che è un firmware basato su un linguaggio che si chiama Lua, che è abbastanza molto diffuso, alto livello, sulla, sì. Nell'embedded, sì, è abbastanza diffuso, e c'è stato, insomma, questo porting di Lua con l'integrazione delle funzioni che sono proprie di questo chip, cioè del Wi-Fi per esempio, o di quello che riguarda la GPIO, e si è partiti con quelli, ma si è subito arrivati allo sviluppo di un ambiente per sviluppare con l'IDE di Arduino. Sì, quello è oggi stato come il oggi, botto proprio. Sì, assolutamente, ma anche perché tu pensa, tutte le persone che con Arduino hanno messo su dei progetti e quindi comunque sono pratici dell'ambiente, del linguaggio eccetera, si sono fiondati anche su questo, esatto, su questo sistema qua, in maniera semplice, anche se sì, assolutamente, ma oddio, c'è stata un'evoluzione, sì, anche sì, di questa cosa qui, perché non era semplicissimo fino a 6 mesi fa mettere sull'ambiente, perché addirittura per renderla semplice per tutti si era fatta una macchina virtuale con tutto l'ambiente installato, proprio perché non era proprio velocissimo da mettere su. Oggi come oggi, con pochi, veramente pochi accorgimenti, si riesce ad usarlo tranquillamente, tra l'altro con tutte le diverse configurazioni che si possono avere, quindi dalle SP standard, cioè quello, il cippettino che compri senza niente a contorno, fino a diverse dev board, tra cui quella NodeMCU e altre che ne sono uscite fuori, che quindi ti permettono già di avere una cosa un pochino più anche più veloce nello sviluppo del prototipo. Esatto. Allora, a questo punto stavo pensando quello che ha chiesto Francesco, diciamo, dal punto di vista hardware, no? Quando hai spiegato un po' cosa c'ha, diciamo, la parte input-output che io vedo è, alla fine, è un misto di robe che ha sia il Raspberry ma che anche l'Arduino, come tipo il pulse width modulation, ma anche poi tutti i tipi di quindi fondamentalmente può coprire il campo d'azione di diverse board. Quindi secondo te diciamo, può essere migliore o peggiore di altre alternative come Arduino, Raspberry, anche di utilizzare l'XB e altre cose? A me dipende molto dal tipo, allora, di diciamo che sicuramente dipende molto dal tipo di applicazione. Esatto, okay. Esatto. Allora, rispetto al Raspberry, no, io non lo vedo in concorrenza, no, sono infatti due cose completamente diverse, cioè non lo metterei neanche a confronto, perché non c'è un vero confronto, a parte, ma neanche con lo Zero, perché comunque lì non ci puoi far girare un sistema operativo, o meglio, c'è un sistema operativo, ma non è come lo intendiamo noi, esatto, per quello che ci va sul Raspberry. Quindi, ecco, quella non è un confronto che farei. Il confronto con Arduino invece ci sta tutto, soprattutto con un Arduino 1 ci sta veramente tutto, perché comunque proprio rispetto al discorso che ci si può programmare con l'IDE di Arduino e quindi è molto più semplice, va a coprire, tra l'altro, zone che l'Arduino coprirebbe con degli extra, aggiunte, diciamo, ecco. Sì. E tra l'altro, se vuoi farlo, se usassi lo stesso ESP sull'Arduino, dovessi metterti a programmare la seriale, cioè di comunicazione tramite la seriale, che secondo me, esatto, che poi, esatto, è un casino suo. Quindi il discorso qual è? Che tornando al discorso tra l'ESP e l'Arduino 1, io probabilmente oggi come oggi, se non avessi, ecco, perché poi ci sono degli accorgimenti particolari, se non avessi necessità di usare hardware particolari che non hanno delle librerie che sono già state fatte per le ESP, o che comunque non sono, perché ci sono tra l'altro delle librerie per Arduino che sono completamente compatibili quando usi le ESP, quindi non c'è neanche la necessità di una nuova libreria di ricompilare, eccetera. Ce ne sono alcune invece che, essendo basate molto sul diciamo sul core del dell'Atmel come tipo di linguaggio, come timing, eccetera, devono essere invece adattate all'ESP. Tra l'altro ho sentito che non così, che molti hardware non è così difficile adattare delle librerie da una cosa all'altra. Ne ho viste parecchie portate dall'Arduino all'ESP, funzionano tranquillamente. Per cui, ecco, cosa mancherebbe all'ESP, diciamo, rispetto all'Arduino? Forse un tot di porte esatto. Analogiche, ok? Ok, sì, però giusto. Se facciamo un piccolo excursus su quello che può essere un chip che può tra l'altro comunicare o I2C o con le SPI, con le SP, che sembra un gioco di parole, esatto, ma è così. PPP, CC, eccetera. Esatto. Esatto. Possiamo moltiplicare gli ingressi e uscite analogico-digitali in un soffio, per cui anche lì alla fine esatto, ma volendo uno potrebbe anche, io stavo vedendo oggi per il Raspberry per alcuni sensori, può anche prendere un cippettino ADC a 8 sì, canali sì, sì. Esatto. Lo paghi $2, lo attacchi e hai, moltiplichi per quanto vuoi tutti gli ADC che vuoi, che esatto, hai, quindi... infatti a quello mi riferivo, nel senso che anche la spesa sì. Non è eccessiva nel caso in cui tu voglia comunque aumentare gli ingressi e le uscite analogiche. Esatto, quindi secondo me vince... Ah, l'ultima cosa che mi ero dimenticato era anche rispetto all'XB, però su questo siete più esperti voi, no. Cioè almeno non so sì. Giuliano, Francesco sicuro. Ma esperto nel senso che ce io li hai. Come... No, avete presente quando vi ho raccontato nel podcast che avevo fatto l'ordine della Raspberry 2 e poi è uscita la... No, della Raspberry B Plus e il giorno dopo è uscita la Raspberry 2, ecco, io ho fatto l'ordine delle XB, ho aspettato le XB per un sacco di tempo perché su RS Components non c'erano, le ordinate, ho speso un sacco di soldi perché la XB è cara, sì, è dannatamente costoso, cara, sì. E poi sono andato alla Torino Mini Maker Faire, ho fatto 4 chiacchiere con i signori di Arduino e loro abbiamo detto, ma no, la XB, usa l'ESP, e io, porco mondo. E tu il che? Era meglio non saperlo, vedi? Vero, e infatti poi ho cominciato a vedere queste cose, poi però in effetti io mi sono un po' più orientato sul Python, di conseguenza ho quasi tutto fatto con aspetta, il... aspetta, ho una novità anche per te, c'è anche questo per voi, non vi preoccupate. Ma lì ci sono ho quasi paura, ma non mi fermerete, perché vabbè. Il progetto della domotica che mi sono fatto per la casa è tutto fatto così. E diciamo che quindi... tu vuoi convincerti che hai fatto bene, bravo, hai fatto assolutamente bene. Assolutamente, bravissimo. Hai fatto bene. No, diciamo che con l'XP non c'è proprio un paragone. Allora, cioè... Mettiamo. State, ricordatemi una cosa, l'XB è solo una shield di comunicazione o fanno anche delle board loro? Io questo non ho proprio idea. No, la XB ha dei pin di digital. Ah, ok, lì una specie di ESP più o meno. Sì, lui è una schedina, Giuliano, correggimi se sbaglio, che innanzitutto non usa il Wi-Fi. Ma ha il suo protocollo, mi pare che viaggi sullo Zigbee come connessione Wi-Fi, e praticamente tu fai una scheda master, tante schedine slave e loro comunicano tutte con la master e non fa altro che trasferire dei dati in analogico o in digitale su seriale, su quel tipo di protocollo wireless, dalle periferie alla principale. Quindi non è necessario avere un Arduino sotto. Okay. Lei si interfaccia con Arduino, con lo shield suo. Tra l'altro lo shield lo hanno cambiato esattamente quando volevo fare dei test, quindi non era disponibile né quello vecchio né quello nuovo. Però vive anche lei sua, cioè fa tutto quanto lei volendo. Ho visto dei progetti con due XP che comunicano tra di loro, tu schiacci il bottoncino da una parte e il LED si accende dall'altra. Con questo, mentre parlavi, ho controllato, e l'XP hanno una serie di standard dentro XP che vanno dai 2,4 GHz, quindi dalla wireless, fino a 868 MHz, coprendo un po' di robe. Ma non quindi... sì, viaggia sulla stessa frequenza, ma non è quella del, cioè non è quella del wifi di casa. No. Vabbè, però sì, siamo più o meno in quel range là, diciamo, sì, 2,4 sì. Più o meno quello, 800 sono quelle nuove, le frequenze ex televisive. Ecco, quindi copri anche raggi diversi, perché sto vedendo ultimamente in rete gente che ha tirato su delle wireless a livello di chilometri utilizzando le frequenze intorno agli 8-900 MHz che sono rimaste scoperte. Bisogna anche stare un po' attenti al fatto del licensing, delle frequenze, perché purtroppo certo. Adesso quando si va a parlare di wireless, praticamente di licenze libere non ce n'è praticamente più, se non il wifi vecchio e nuovo e poco altro, perché il resto è tutto licenziato. Ma perché tutte le altre frequenze, più quelle più basse, coprono un'area più grossa fondamentalmente, quindi può interferire, quella è la cosa fondamentale. Il wifi di casa arriva a qualche decina di metri a seconda della potenza, però in genere se è un'area limitata, quella è la cosa. Ma visto che la potenza massima è 100 milliwatt, io ti dico, il mio wifi che ho al quinto piano, al piano terra, non ci arriva. Esatto, quindi... Ok, perfetto, quindi... Vabbè, abbiamo detto un po' cos'è... a questo punto possiamo un po' mettere le mani nello sporco, cioè cominciare a parlare proprio dell'hardware, come è fatto questo robo di cui stiamo parlando, perché giustamente, come diceva Francesco, se uno non ci ha mai sentito parlare, non sa di che stiamo parlando. Quindi immaginatevi un coso piccolissimo, fondamentalmente. Fondamentalmente il chip è veramente piccolo. Che, mentre parli io controllo le dimensioni, perché non mi ricordo. Deve essere, mi sembra sia la metà di una micro SSD, se non mi sbaglio, occhio. Occhio è sì, più o meno è così, sì, una metà di una micro SD. Si accompagna di solito con una EEPROM, le cui dimensioni sono più o meno le stesse. Diciamo che il modulo più grosso, nella configurazione più grossa, o diciamo più grossa nel senso di dimensione, ha il diametro di una moneta da 2 euro. Ecco, questo è compresa proprio la board, non solo il chip. Cioè sì, bisogna tener conto che su quello c'è anche l'antennino, perché essendo in wifi c'è bisogno dell'antenna. Non so se su tutti è compresa, alcune delle board non ce l'hanno. Allora, ce ne sono alcune che ce ne sono alcune che hanno l'antenna disegnata sulla board, praticamente, cioè sul circuito. Okay. Ce ne sono alcune che hanno l'antenna di ceramica. Okay. Ce ne sono alcune che hanno l'antenna di ceramica e l'attacco per un'antenna esterna. Okay. E sono quelle molto gettonate, perché ha bisogno di fare delle trasmissioni con un raggio più lungo. E ce ne sono alcune che invece hanno solo l'attacco per l'antenna esterna. Okay. Sono 12 tipi di configurazioni diverse, anzi forse sono 15 tipi di configurazioni diverse, quindi ho trovato su Wikipedia, che sembra una fonte di informazione, sono tutte elencate, della 12 ne sono 3 tipi, per dire, c'è anche una 13 che non conoscevo, e come dicevi la 13 non esiste, diciamo che non è proprio una 12 modificata, sì. Vabbè, comunque ci sono i vari tipi di antenne attaccate e non attaccate. Le dimensioni di quelle più piccole sono 10x10 mm, con tutta la board e l'antenna e tutto. È un centimetro quadrato, sì. Esatto, un'unghia praticamente. Per arrivare a 2,5, alle 12, alla ESP12, che è la più grossa, con antenna sul PCB e tutto. Sì, sì, che è quella che dicevo che ha il diametro di una moneta da 2 euro. Esatto, esatto. Ed è veramente ridotta. Il discorso di queste board qui qual è? Cioè, andando ad usarle, di cosa stiamo parlando? L'unica che si può, diciamo, usare immediatamente è la ESP01, perché ci arriva con dei connettori già montati. È un connettore, tra l'altro, non breadboard friendly, quindi un sacco di macello per poterlo usare su una breadboard o comunque usarlo facilmente. Ma basta connetterci quei cavetti che si chiamano DuPont, non so se ce l'avete presente. Sì, sì, con, no. Ne ho comprati un paio centinaio dai cinesi ultimamente. Esatto, un paio di migliaia, diciamo. Ne ho una scelta varia qui. Io penso che i miei variano da mezzo centimetro a 4 chilometri. Tirare uno fino a qua, mezzo centimetro, sì, sì, sì. Sì. Ma poi tra l'altro ci sono ho rigorosamente di tutte le tipologie, cioè esatto. A tanto guarda, livelli. C'è sempre quello che ti serve che dici porca miseria, manca questa combinazione, esatto. sempre. Sì. Vabbè, se hai adattatori esatto. Ti crei un mosso Frankenstein al volo, li saldi un paio e via. Sì, ma li congiunti due. E quindi dicevamo, quello che si può usare immediatamente è questo, magari connettendoci questi cavi qui, perché appunto ha, diciamo, una breakout integrata, ok? Gli altri invece hanno una tipologia di montaggio che si avvicina a una cosa tipo l'SMD, e quindi hanno bisogno di una piccola board per poter lavorare sui vari pin. Io ne ho viste, allora, a parte che io di solito ho utilizzato o le SP01 o le SP12, anche perché mi sembrano le uniche due configurazioni che poi fanno al mio caso, tranne forse poter utilizzare un SP07, che è quello che ha anche l'attacco per l'antenna esterna nel caso in cui serva, però di solito io mi oriento su questi tre modelli. Tra l'altro l'ESP12 modello F è quello che ha i 4 mega di memoria, per cui mi fionderei direttamente su quello nel caso dovessi. Esatto. Tra l'altro una cosa non stupida, per noi forse non è importantissimo, però come diciamo la 12 di cui parli, modello F, è approvata dalla FCC, anche della Comunità Europea per le comunicazioni radio, ma tutte le altre no. Quindi se voi cominciate a fare cose importanti avete bisogno di licenze, no, se giocate a casa nessuno vi dice niente, però se fate già un bel progettone di sensori nessuno vi dice niente se non siete vicino a un posto dove potete disturbare, cioè io ovvio. Già se avessi casa vicino a un aeroporto starei un po' attento, esatto. Perché cominciano a farti le pulci, quindi se dovete fare se ne hai uno qualcosa. Se ne hai uno e ci vedi un sensore a casa tua, sì. Però se comincio a metterne 20 per fare un mesh di sensori intorno a casa... Ecco, piuttosto lì... che se vai da qualcuno e glielo proponi, glielo vendi, esatto. Di qua di là, deve bisogna andare sul CE approved per forza. Esatto. Assolutamente. E quindi, dicevo, di queste piccole board per il breakout dei pin, ce ne sono diverse. Alcune, tra l'altro, sono più o meno compatibili con i pin della breadboard, ma in fin dei conti conviene affiancarne due ed utilizzarlo a cavallo fra le due board in modo da avere più spazio disponibile per poter montare i famosi fili da una parte all'altra. Ce ne sono alcune diciamo a sviluppo orizzontale dei pin, per cui occupano tutta una parte della breadboard e sono discretamente comode. E invece ci sono quelle diciamo più tradizionali che richiamano quella che è la tipologia di pin di un Arduino, cioè le due parti praticamente che vanno sui pin della breadboard. Si trovano a pochi centesimi e tra l'altro molte volte l'acquisto si fa dallo stesso venditore che ti dà sia la breakout che l'ESP. Esatto, quindi... Sì, stavo guardando su Amazon, comunque l'SP12 fa 25 euro. No, momento. Allora, comprala, Francesco. No, se volete comprarli a 12, cioè a 25 euro, ditelo a me e ve le mando subito. Esatto, subito. Vengo a casa a portargliele. Esatto. Esagerato. Sì, no, sono cose assurde. Tornando a quello che poi è cosa ci si può fare, lì il discorso è veramente vasto. Io ho visto in questi tempi ho visto cose dalla A alla Z, dai sensori di temperatura che comunicano con ThingSpeak per cui puoi farci il grafico eccetera, alle stazioni meteorologiche che sul display ti fanno vedere il tempo che farà domani prendendolo dal server XYZ tramite API e portandolo a casa, insomma veramente di tutto. cioè, diciamoci la verità, quello che si può fare con l'Arduino al 99% si può fare anche con l'ESP, quindi c'è veramente tutto un mondo attorno a questa cosa qua. In più, con l'ESP, rispetto all'Arduino pure semplice, quello che si può fare è tutta la parte di comunicazione via Wi-Fi, che non mi sembra male. Poi, tra l'altro, sullo stesso chip, via software, si può attivare un web server, per cui dal tuo telefonino puoi andare direttamente a comandare l'ESP, le varie uscite dell'ESP. Mi sembra una cosa discretamente carina, per sempre tornando al discorso dei $3. Quindi questo, cioè il firmware di questa scheda ha già un web server suo? Allora, il firmware no. Allora, il discorso qual è? Che la schedina, tramite il firmware, può essere programmata come client della tua rete Wi-Fi, mm-hmm. oppure, tra l'altro, può anche fare da access point. Quindi, oltre a poter essere configurata in una rete mesh, che da poco hanno un po' messo su qualcosa di un po' più semplice rispetto a prima, però fondamentalmente tu puoi utilizzare il firmware per configurare un web server che risponde alle chiamate. Quindi, esatto. Tu, volendo, puoi fare un web server, oppure dici a uno dei tuoi ESP: guarda che tutti quanti si collegheranno a te senza avere un router Wi-Fi in casa dedicato a quello, giusto? Sì, okay. Si può fare, sì. Diciamo che l'esempio che hai fatto tu, la cosa tipo comoda sarebbe anche quello. Sai che ho letto gente che ha fatto un server, ha creato delle API REST sull'ESP, in modo poi da poter direttamente interrogare tramite chiamate HTTP sensori, per esempio. Assolutamente. Esatto. Ma adesso, per far capire un attimino quanto può essere semplice, ci sono delle applicazioni, o come vogliamo chiamarle, dei software, dei progetti che tra l'altro sono andati anche su Kickstarter, tipo ce n'è uno che si chiama Blink, che ha fatto un discreto successo, ma veramente con quello in 5 minuti puoi farti il tuo sensore con tutta la parte che riguarda la grafica e l'applicazione sul cellulare, cioè, ma veramente 5 minuti, forse 3, forse un 3 Kickstarter minuti. Bello, me lo vedo subito. Segna nel link delle note, che poi lo mettiamo sul... Ma solo su ESP questo, no? O una cosa generica? No, va anche su Arduino, ma diciamo che sull'ESP ha il suo terreno più fertile, proprio per la storia del collegamento Wi-Fi. Credo vada anche su Raspberry, così, a naso. Però, ti ripeto... È un progettino bellino, perché non hai bisogno di avere grandi doti di programmazione, anzi, nessuna dote di programmazione su Android, per esempio, perché c'è un'app che ci gira, tu ti disegni la grafica, gli dici: guarda che il mio sensore è quello a quell'indirizzo lì, carichi il firmware sull'ESP e pronto, ecco, fatto. Ci Bello. Sono dei video su YouTube che veramente ti dicono: adesso in tre minuti facciamo questa cosa qua, e poi ce ne mettono un minuto e mezzo. Ottimo. Ah, ecco, fantastico. Sì, no, ed è molto carino. E ho visto gente che con Blink ha fatto delle cose discrete, trovando anche dei bug che poi sono stati corretti, e quindi, insomma, è sempre una cosa in evoluzione, ovviamente, ma meglio così, insomma. Ottimo, quindi... Vabbè, diciamo che le possibilità sono solo la fantasia dell'utilizzatore, fondamentalmente. Veramente, perché, sì. Io ho visto anche roba di robotica fatta con degli ESP. Ah, assolutamente. Esatto, due motorini, attacchi alle GPIO e via. Sì, ma allora, a parte che ci sono anche delle shield proprio per i motorini, cioè prendi la dev board non da MCU, la butti sopra questa shield, la shield ha l'integrato che alimenta poi i motorini, ma veramente in poco tempo e in pochissima spesa riesci a fare il tuo robotino, che tra l'altro intanto controllare sicuramente via Wi-Fi col cellulare e compagnia, ho visto dei progetti veramente carini di robottini con cui si comunica con Scratch, con quel linguaggio che si usa anche per insegnare ai bambini a programmare, non so se l'avete presente. Sì, quello che sta su Raspberry di default anche. Esatto, sì, e infatti la parte grossa del progetto stava su Raspberry e tramite delle piccole librerie che sono state sviluppate apposta comunicava con il robottino fatto con Node MCU. Delle idee comunque molto carine e economiche allo stesso tempo, che sicuramente, come abbiamo già detto prima, è la punta, è il punto di forza di questo chip. Ottimo, quindi abbiamo più o meno fatto una panoramica su che cos'è, a che serve, diciamo, cosa pensavano che servisse all'inizio e cosa ci fanno la gente, le genti adesso. La gente. Tra l'altro vorrei ricordare che questo qui è, diciamo, diventato subito molto facile. Cioè, chi fa IoT al giorno d'oggi deve conoscere, cioè, ha sentito parlare dell'ESP 8266, però c'è il modello nuovo che sta uscendo, in cui c'è anche tutto un sacco di chiacchiericcio intorno, che dovrebbe fare anche cose molto più grosse, importanti, però ancora non si sa esattamente neanche il prezzo, tra l'altro. No, allora, sicuramente il prezzo non sarà quello dei $3, perché è un chip discretamente più potente, ma per dirla in breve, tra l'altro è anche dual core, quindi ha anche... si sta pensando allo sviluppo anche del multithreading su questo chip, quindi c'è qualcosa che si sta muovendo tanto. È in beta test per poche persone, io no, purtroppo non ce l'ho fatta ad entrare nel beta test, ma perché l'hanno mandato a gente tipo Adafruit e compagnia, e io non sono a quei livelli. No. Ti devi dipingere le unghie e i capelli. Stavo pensando ai capelli, sì, esatto. tra l'altro è un chip che ha, a parte la parte wifi, che è quella forte, su cui loro sono skillati, eccetera, quindi hanno fatto anche un grosso lavoro, perché il chip avrà, per esempio, si dice, perché ancora non si sa bene, il supporto hardware dell'SSL, per cui insomma, stiamo parlando già di qualcosina un pochino più avanti, ma avrà integrato il Bluetooth low energy, quindi abbiamo da una parte il wifi, dall'altra parte il Bluetooth, cioè, ma vogliamo veramente comunicare con qualcosa? Abbiamo tutto il necessario, ovviamente più un po' più di memoria rispetto a quello che era prima, non credo che supererà i 4 mega da quello che si è visto. Sto vedendo su un sito che io avevo registrato, noi stiamo parlando dell'ESP32, no? Sì. Esiste anche un ESP31, che io fino adesso non l'ho mai visto. Ma, no, allora il discorso qual è? Che l'ESP31 è la versione beta dell'ESP32, che è quella che hanno spedito adesso. Non gli hanno dato direttamente perché probabilmente stanno facendo anche un debug del chip, quindi verrà fuori l'ESP32, e per non chiamarlo ESP32 A o B o C, probabilmente si sono limitati al 31 per il momento. Ok, perfetto, quindi questo è anche il futuro. Quindi, però, fondamentalmente, io ho letto anche sono circolate queste, la lettera che ha fatto il capo dell'Expressif agli sviluppatori, che sarà una bestia diversa dall'ESP che conosciamo prima, quindi non sarà una cosa a così basso costo, è un pelo diverso. Non ai $3, però no, sulla decina, però, ventina, se non è massimo, top. Sì, credo che si sia negli ambienti underground, esatto, in giro si parla di massimo una quindicina di euro, ecco. Sì. Per una cosa che ha tutta sta roba dentro e con più memoria, tutti Bluetooth, la vedo, diciamo, se uno ha delle applicazioni specifiche e ha bisogno di più potenza, puoi anche mischiare le due cose, no? Usare il nuovo 32 come bestia sotto e poi usare una serie di vecchi 8266 per poter fare registrare sensori e robe così. E infatti credo che poi metteranno su una rete mesh che funzionerà proprio con il core dell'SP32 e poi le varie vari sensori con l'8266. Esatto, ok. Io una cosa che ho sempre in testa quando sto vedendo questi sviluppi delle nuove chip, eccetera. Cioè, voi avete in testa l'idea, cioè la faccia di questi cinesi che hanno sviluppato la prima volta l'8266, pensando noi facciamo una shield per Arduino, e hanno avuto questo boom assurdo. Cioè, secondo me hanno cambiato proprio strategia completamente. Cioè, non lo so, penso sono rimasti stupefatti anche loro da questa come dire, accettazione. Guarda, io non lo so, perché comunque... cioè, in fin dei conti, questi hanno avuto un'idea spettacolare, e secondo me l'hanno buttata lì proprio nel momento giusto, in cui stava uscendo vari competitor, diciamo così, ma nessuno a quel livello di prezzo. Ci sono delle cose della Texas, ma costano siamo 30, 40, 50, cioè sono delle cose, ma questi hanno avuto queste, ma io mi chiedo anche come siano arrivati a poterlo far pagare così poco, perché se già lo fanno pagare, mi immagino cosa costi in produzione. Sì, niente, cioè, ma costa nulla... 25 centesimi. Ma no, cioè, ecco, però tornando a che poi sono discorsi che si possono applicare a un sacco di cose, ma mi immagino alla Texas quanto gli costi quello che fanno pagare 30-40 euro. Esatto, però tieni conto che questa XSIF è piccola, la Texas comunque $30 o euro, tu paghi lo sviluppo e la ricerca e tutto quello che fa la Texas, che è una bestia di dimensioni di un alto livello, tieni conto quello. Capisco, ma cosa vogliamo dire? Che hanno sbagliato a fare la... Però da quanto questo Ambaradan, poi si sono fatti fregare da quelli che sono quattro gatti in Cina. No, fregare, insomma, sono anche target diversi. Tu fai, cioè, tu utilizzi sensori del genere in ambiente anche business, probabilmente utilizzerai più soluzioni. Cioè, pensa tu, se vendi una soluzione basata su la Texas Instruments col supporto, eccetera, dei cinesi, Texas Instruments. Quindi sono cose un po' diverse. Secondo me, per gli amatori come noi, che è diventata una cosa molto, molto usata, però le soluzioni, diciamo, nell'industria rimangono molto più salde, e è soprattutto là il supporto che fa la differenza più che il prezzo. Guarda, io ho visto già che ci sono aziende che si sono già mosse per fare dei prodotti basati su questo, e non solo aziende cinesi, ma ho anche esempi di o meglio, mi ricordo di una sicuramente azienda italiana che fa delle lampadine con l'SP8266 dentro, che non è la Philips che prima butta fuori poi rimette dentro. La Philips è quella che tra l'altro da poco ha detto no con la nostra lampadina solo queste cose, comunicano, esatto, solo queste cose qua e basta. Poi il giorno dopo, ah no, ma scusate, abbiamo sbagliato, perché... sì. Che figura. Infatti, vabbè, no, come si chiama questa italiana, si chiama oddio. Vabbè, troviamo il link, lo mettiamo in coda. Sì. Vabbè, ma lo trovo di sicuro. Ok. Senti, no, allora... sì, dimmi. No, dicevo, a questo punto, dato che abbiamo un po' introdotto la cosa, cerchiamo di spiegare al nostro ascoltatore medio. Se io voglio cominciare, diciamo, non ho niente a casa, no? Voglio domani, in futuro, cominciare a sviluppare con un chip ESP. Di cosa ho bisogno? A parte il chip, uno dei chip ESP di quelli dell'elenco che abbiamo detto, tra 1 e 12, scegli a perfetto. Caso. Allora, partiamo dalla scrivania vuota, proprio nel senso, non abbiamo niente. Diciamo, un po' di attrezzi minimi ce li devi avere, perché sennò il saldatore. Le dita, queste cose. Allora, a parte comprarsi un paio di breadboard, perché comunque siamo là. Una cosa fondamentale per poter programmare il chip è un convertitore USB seriale, altrimenti non ci comunichi ma neanche, cioè, esatto. O meglio, diciamo che è la parte più comoda questa di avere il convertitore USB seriale, perché c'è la possibilità di utilizzare un Arduino come convertitore USB seriale, togliendo il chip, quindi insomma, cioè, scusa, quindi, dovrei togliere l'ATmel da Arduino e metterci dentro l'ESP? No, togli l'ATmel dall'Arduino, così che le uscite, cioè, o meglio, l'ingresso del convertitore USB seriale che andrebbe al chip, te lo ciucci via, lo, esatto, te lo porti al... E si porta direttamente sugli ingressi della trasmissione ricezione della board. La convertitore costerà 2-3 euro se mi compro male. L'adattatore che faccio molto molto prima, ma assolutamente sì. Esatto. tra l'altro ce ne sono veramente tanti, sì, sì. Tanti tipi. Ecco, l'unica cosa a cui bisogna stare attenti è che si debba prendere un convertitore USB seriale che butti fuori il segnale a 3,3 volt, perché tutto il mondo dell'ESP funziona a 3,3 volt. E vorrei solo sottolineare che se ci mettete il 5 volt bruciate tutto, fa la svampata, diciamo. Allora, diciamo che sull'alimentazione io non ci ho mai provato, proprio perché altrimenti insomma, quei 60 giorni da aspettare non li volevo più aspettare poi alla fine. No, ma sai cosa? C'è tantissima gente che pensa, ma sì, 5 non è tanto diverso da 3,3, e invece sull'elettronica è un mondo, è come una lampadina da 12 volte la 2 è 20, cioè sì, sono dei fai comunque danni, uguale. Quindi rispettate i 3,3 volte anche se dappertutto ma tutti gli alimentatori ormai sono a 5 volte, purtroppo. Sì. Ma guarda infatti... che nell'elettronica, scusate, io che non sono molto ferrato, però io so che in generale un andamento per l'elettronica digitale è quello di scendere di voltaggio, quindi... Beh, 3. Anche per ridurre i consumi, insomma, esatto. Si fa anche per questa cosa. C'è anche qua. Roba più bassa, però ovviamente là aumenta il rumore, quindi per il digitale può essere più un problema. Giuliano, ma che mi ci fai pensare? Io anche dopo aver fatto la cazzata della Nodal CU sbagliata, ho comprato anche un adattatore seriale e adesso mi fai pensare che non ho controllato che voltaggio è, e quindi questi 2 mesi, oh Gesù, speriamo bene, guarda. 3,3, no, sì, 3,3,5, vabbè, ok, perfetto, li porto tutti e due. Attenzione male. Perché poi lì dipende. No, scusa, è da 3,3 a 5. Che cavolo è sto coso? Serial adapter? Vabbè, vedremo. Dovrebbe andare, poi controllo. Ok, quindi ecco, questa comunque è sicuramente un accorgimento, cioè alimentarlo a 3 volte 3 è fondamentale. Avere questo adattatore è fondamentale anche lui, se ripeto, fosse con uscite a 3,3 sarebbe sicuramente meglio. Vi toglie fuori da un sacco di macello che invece dovreste fare, per esempio comprando un convertitore shift, di livello, esatto. Che oddio, io lo comprerei lo stesso un convertitore di livello, perché ci sono ad esempio dei sensori o la comunicazione con l'Arduino stesso che uno vorrebbe poter fare, che ha con l'Arduino 1, intendo, poi ci sono anche gli Arduino tipo il micro eccetera, che, o il 2, che invece comunicano a 3,3, però nell'Arduino 1 la seriale è a 5 volt. Si può fare un partitore di tensione per far arrivare a 3,3, c'è gente che ce l'attacca direttamente e non gli succede niente, c'è gente che ce l'attacca e scoma, esatto. Quindi abbiate pazienza, ma io non mi metto nella condizione per cui. Scusa, sto controllando quello che ho preso io. C'ho su un piccolo giamperino che tu puoi spostare e lui va a 3,3 o a 5. Vedi, sei stato fortunato. Bravo, nella sfortuna, nella fortuna. Almeno questa l'hai indovinato, esatto, rispetto alla board. Almeno questa, esatto, si è andata bene. E niente, quindi comunque un convertitore di livello lo prenderei comunque, anche perché. Ma torniamo sempre al discorso, stiamo parlando di centesimi di euro, per cui insomma. Un'altra cosa che prenderei proprio per non avere problemi nell'utilizzare questa cosa qua è un piccolo alimentatorino che si piazza sulla breadboard e che dà contemporaneamente sulle due parti diverse della breadboard i 3,3 e i 5 volt. È comodissimo, ci si può attaccare un alimentatore esterno oppure si può alimentare tramite la USB del PC, e in questo modo risolviamo il problema della tensione, delle due tensioni. Scusami una cosa, tutto questo stiamo parlando, se uno prende un chip ESP senza dev board, no? Il esatto, chip, okay. Assolutamente, infatti poi lì arriviamo al clou della questione. Okay, okay. Un'altra cosa da avere sono un tot di resistenze da 10k, perché alcuni pin devono essere portati verso massa o verso positivo per avere delle uscite a livello alto, a livello basso, fisse, per cui ci vogliono delle resistenze da 10k per poterli collegare, okay, alle varie uscite. Cose che, ecco, io mi sono dotato di kit di resistenze perché ogni volta, come dicevamo prima, che dovevo fare qualcosa, mancava sempre quella resistenza. Esatto. Allora, quelle che sono di fatto più alla fine, esatto. un bel kit, ne ho comprati due diversi, okay, quindi ora non mi mancano le resistenze, ho comprato anche un kit di condensatori, insomma, mi sono attrezzato al tutto. Dai cinesi sempre, no? Ma ci mancherebbe. Oh, scusa, è la fede cinese che abbiamo ormai. L'importante è non avere fretta, perché, bravo, si compra di tutto a prezzi assolutamente bassissimi. Io ho preso un sensore di temperatura, tipo 5 sensori a un dollaro, quando qua costano 4,5 euro l'uno. Quali hai preso? È DH11? O i due? No, ho preso, oddio, quelli in digitale. Sì, sono blu o sono bianchi, ecco, facciamo così per capirci. No, magari hai preso quelli che sono tipo, hanno anche della configurazione tipo transistor, ma sono dei, come si chiamano, DS qualcosa, non mi ricordo. Sì, adesso. Dei 18 di 20, una roba del genere, esatto, sono bellissimi, sì, perché ho visto che tu li attacchi sul Raspberry, dici al Raspberry, su quel pin c'è un sensore, entri nel sensore, fai un cut di un file e leggi la temperatura. Sì, perché comunicano, mi pare che tra l'altro comunicano via I2C, adesso non mi vorrei sbagliare. Aspetta, quelli che abbiamo, quelli che io sono DHT11, comunicano tramite OneWire, il tipo di protocollo. Sì, quello perché quello che dice Francesco è un sensore di temperatura, quelli che abbiamo preso noi, che ci sono quelli azzurri, che sono un po' quelli scarsi, diciamo, esatto, sono sia perché di temperatura che di umidità, giusto. Ho anche preso due di quelli lì, sì, come si chiamano quelli di Francesco di nuovo, DS qualcosa, aspetta che te lo dico, aspetta, DS18B20, sì, DS18B20, sì qua, quelli lì. Allora sto comprando e tu parla, vai tranquillo, no. Una decina così al volo. Guarda, allora, se devi comprarlo, guarda che ce n'è uno che si può anche immergere, quindi magari sai, per la temperatura dell'acquario. Sì, sì, ce n'è sia di quelli che si immergono, sia di quelli per alte temperature. Ecco. Per il forno, dai, subito. Esatto, hai visto? Cioè, siamo informatissimi. Oddio mio, questo ci manca. Sì, quello per il forno io lo metterei volentieri sul mio forno di Ikea per capire quanto il termostato è vero oppure no. Ah, giusto. Ma voi lo sapete che secondo me ce li ho? Io sto continuando a comprare robe e ho doppioni di tutto ormai. Io penso, sì, di averceli. Il fatto è che quando tu mi mandi le cose arrivano più tardi di quando partono dalla Cina. Io questa cosa non la posso capire. Sono le poste italiane, non vorrei dire. Ma ne sono certo, non ho, esatto, nessun dubbio. D'accordo, ok, dai, andiamo avanti perché abbiamo più o meno... Sì, allora, diciamo che allora questo è veramente l'essenziale per poter lavorare un attimino con l'ESP, per poterlo programmare, per poterci dare un attimino di controllo. L'altro livello è quello di comprarsi una dev board che ha integrata l'alimentatore, la connessione USB, la possibilità di montarla sulla breadboard, quindi è una board già pronta, che sicuramente è più comoda, e su questo non c'è dubbio. Tra l'altro con i tasti di reset anche di più. Vabbè, sì, beh, sì, ok. Guarda, Francesco, sul di più è perché, allora, metti che un SP... giusto. Secondo sì, me. Assolutamente, ma l'ESP 12 ti costa, mettiamo, 2,50 euro, un convertitore di livello, un tot, poi il convertitore USB, cioè arriviamo che praticamente una Node MCU, sempre comprata dai nostri amici con l'occhio a mandorla, costa 7 euro, quindi voglio dire, tra l'altro magari ti arriva anche dall'Olanda o dall'Inghilterra in una decina di giorni, quindi penso che la spesa potrebbe... non essere così avventata, ecco. Penso che tu potresti darmi anche i link di questi qua che spediscono dall'Olanda, sai? Ma sì, basta che vai sui siti, quelli nostri noti, gli dici da dove devono spedire. Sto vedendo mo tipo in Italia, spedizione domestica in Italia, board di alimentatori, quelli a 3,5 a 3,35, 5 a 10 dollari spediti dall'Italia, per dire, cioè un dollaro l'uno. Ok, guarda, se guardi su eBay io ho avuto brutte esperienze con quei con i signori cinesi che dicono che spediscono dall'Italia e poi ti arriva la roba in 60 giorni dalla Cina. Sì, esatto. Allora preferisco andare dal grossista cinese che mi dice no no, guarda che questo è presente nel magazzino inglese, te lo mando da lì. Almeno ho un attimo di certezza. Poi mi è capitato anche la fortuna che lo avessi comprato dal magazzino cinese e mi arrivasse dal magazzino olandese. Non so bene quali sono i traffici, però. Ma secondo me le robe che si trovano qua in stock le spediscono da qua, perché anche per loro è più semplice. Ma sicuramente. Ma sì, di andare, diciamo, a fortuna. Ok. Comunque, di queste diciamo, dev board ne esistono diverse, ne esistono anche esatto, elenchiamole non dai un soliti attimo, cinesi, dai. Sì, ne esistono anche non solo dai soliti cinesi, ma anche un attimino più pregiate, vogliamo chiamarle così. Una di quelle che mi ha stupito di più, proprio che è uscita non da tantissimo, è la nuova di Adafruit che si chiama... come si chiama? Feather. Non saprei. Una cosa, è scritto Feather con la H, quindi sarà una cosa così. Feather Yuza con la H iniziale, esatto, e finale, ma perché non le chiamano più semplicemente? Gennaro, tipo, nome così. Ma non sì, ma non è più semplice 1, 2, 3, esatto, capito? Esatto. A questi livelli. Ma devono essere fighi perché sennò non vendono. Esatto. La cosa interessante di questa board qual è? Che oltre ad avere il convertitore USB eccetera, quindi tutte quante quelle cosine che mi hai detto prima, ha anche la possibilità di essere alimentata tramite una batteria LiPo. Giusto. Con la possibilità anche di ricaricarla tramite la USB, e lì già scatta tutta un'idea sui sensori collegati con la batteria, c'è tutto un discorso dietro che potrebbe essere interessante fare. Tra l'altro le batterie LiPo hanno questo enorme vantaggio che hanno un sacco di carica e pesano veramente poco. Sì, sì, sì, esatto. Hanno lo svantaggio che vanno trattate con un po' di cura, se no... ti fanno saltare una mano. Esatto. Sì, potrebbe non essere. Ecco, diciamo che ecco, su questo versante qua, diciamo che mi fido un tantino di più di quello che mi dà Adafruit piuttosto che il cinese, quello che mi dà il cinese di dietro l'angolo. Oddio, dietro. Alla faccia del dietro l'angolo, sta dall'altra parte del mondo. Vabbè, un angolo grosso, È un angolo esatto. Molto grosso. Ce ne sono anche, tra l'altro, oltre a questi Adafruit, che bisognerebbe poi vedere il distributore europeo o in Italia, e quindi comunque non costano pochissimo. Scusate se vi interrompo, Adafruit spedisce solo dagli Stati Uniti? Perché io non ho mai comprato da loro per quel motivo. Mi sa di sì. No, neanche io ho mai comprato niente da loro, ma non per quel motivo. No, perché loro hanno un sacco di cose interessanti, quindi... Sì, assolutamente. Io ho comprato robe in America, però quelle volte che mi sono stato per lavoro in America 2 settimane mi sono fatto spedire direttamente in hotel. Da Sparkfun, esatto. Sparkfun però... è il male in... Il mare in terra. Sono i cinesi d'America, diciamo. Esatto. Senti, comunque, ok. A parte queste qua, ce ne sono anche comunque, sì. Dicevo, in Europa c'è la Olimex che fa una board bellissima, tra l'altro ne fa una che ha sopra già anche un relè per poterci comandare la presa di casa, eccetera, eccetera. Ce ne sono, tra l'altro, di queste board ce ne sono anche di diverse fatture, ce n'è anche una che praticamente somiglia, anzi è identica a un Arduino Uno, compreso la disposizione dei pin, e quindi alcune delle shield che si possono usare per Arduino si potrebbero utilizzare anche su questa board qui, che è della Wemos, che si chiama D1, da poco è uscita la R2, che è quella, insomma, un pochino più interessante, e varie altre, poi ce ne sono diverse di queste robe, sì, qua. Diciamo che a parte tutta quella roba che è venuta fuori su Kickstart, esatto, nel tempo, diciamo ce ne sono varie che sono sia da aziende come Adafruit, Olimex, e un sacco di progetti che sono nati, tra cui anche la board, quella lì. L'unica l'unico inciso che volevo fare era quando Francesco parlava di Python. Anche MicroPython è stato portato sull'ESP, certo. Però non è completamente funzionale, diciamo che ci puoi giocare, però per fare progetti seri non va. E loro pure hanno, mi sa che hanno una board loro che va solo con MicroPython volendo, quindi, però non è basata su ESP. Comunque ce ne sta una carrellata che poi vi lasciamo, tra i cinesi, non cinesi, board, eccetera, diciamo che sono veramente... c'è l'imbarazzo della scelta, quindi poi dipende anche dal prezzo che uno vuole sganciare e dalla difficoltà, quindi se vuoi il chip bare o se vuoi tutta la dev board, che poi parliamo di dev board, ma alla fine saranno $10 se ti va male, e non è proprio... ok? Perfetto, quindi diciamo, ok, adesso una rapida carrellata prima della chiusura di, abbiamo detto di come è fatta fisicamente, come si trova, quindi, tra dev board, chip bare, eccetera, che software... Velocemente, abbiamo già accennato alla IDE di Arduino, Blink l'ha già parlato, NodeMCU, sai, abbiamo leggermente accennato prima. Sì, allora, il NodeMCU è, diciamo, un gruppo di persone che si sono riunite, è un progetto che è partito sempre dalla Cina, insieme con l'uscita del chip, è diventato grosso e adesso ci partecipano, praticamente è diventato open source, quindi su GitHub si può trovare di tutto. NodeMCU, oltre al firmware, quindi sviluppa anche una board, sì, che tra l'altro è open come tipo di progetto, anche quella, quindi uno se la potrebbe rifare a casa. Esatto. Però quello che oltre il firmware sviluppato, quello che fanno è anche delle utility varie, per esempio per poter flashare in sicurezza il firmware sul chip. Una semplicità, giusto, estrema, giusto. A parte sapere come si fa, perché c'è da fare un lavoretto sul chip, ma a seconda della board non c'è neanche bisogno di quello. Ma lasciando perdere questo, sì, sì, per sì. Programmare invece il chip, una volta che abbiamo messo su il firmware NodeMCU, io consiglio di usare un software che si chiama ESPlorer, cioè Explorer, okay, senza con la X sostituita dalla S praticamente, che è un progetto della community russa che segue l'ESP8266 ed è fantastico, non ha bisogno di niente, tra l'altro compatibile volendo anche con MicroPython nel caso in cui si voglia installare quello. Ottimo, quindi c'è cioè di tutto praticamente. Sì, anche JavaScript ci puoi installare, Basics, tra l'altro sta andando avanti, sì, no, ottimo, c'è di tutto veramente. Quindi se uno poi si immerge in questo mondo, ci sono anche posti dove uno può raccogliere informazioni come il forum. Ufficiale. Sicuramente il punto principale di informazioni è sicuramente il forum, che è sp8266.com. Lì veramente ci si trova di tutto, su tutti i linguaggi e su tutte le board, quindi veramente un concentrato di tutto quello che c'è da sapere lo si trova lì, e si trova anche aiuto molto molto spesso. Esatto. Su questo non c'è discorso. Ok. Oppure si può seguire, ci sono degli account su Twitter da seguire, ce n'è uno in particolare che è proprio quello dell'ESP8266, e volendo ci sono un paio di account proprio della Espressif da seguire, proprio per avere un po' le novità in prima fila, insomma. Ok, e inoltre per noi nerdoni di vecchia data c'è anche i canali IRC. Cioè IRC. Sì. non è sempre molto trafficato, mi ricorda un altro canale di nostra conoscenza. Uno dei nostri, diciamo. Ascoltatori, parliamo di voi, venite ogni tanto sul nostro canale IRC, ma anche noi stessi non ci siamo quasi mai, quindi... Infatti. Vabbè. Diciamo che... è il canale sbagliato, ma non è questo il posto, esatto, per esatto. Parlarne. Va bene, quindi come ultima cosa vorrei ricordare, sono anche un sacco di risorse da leggere, come Giuliano giustamente oggi mi ricordava, c'è anche un libro in particolare che vorrei ricordare. Bellissimo, che io ho letto, sì. Quello di Neil Kolban, che anche, se non sbaglio, lui ha anche un sito dove, diciamo, è una raccolta di tutte le robe che lui ha fatto. Esatto, è il libro, sì, free sull'ESP8266, è raccolto in un ebook gratis. E tu vai, che tra l'altro è sempre in evoluzione. Esatto, è enorme, tra l'altro, vorrei ricordare. C'è tutti i suoi progetti, tutte le sue idee, tutto quello che ha fatto l'ha messo lì dentro, è veramente una bella cosa. Ottimo, quindi direi, poi una marea di altre risorse che vi scriviamo, se no qui non finiamo, da qui a domani non finiamo più. Quindi direi che più o meno in questa rapida carrellata abbiamo ovviamente sforato i tempi che ci avevamo preposti, però dai. Vabbè, però solo di 10 minuti è, un, hai è ragione. Fattibile. Ah, giusto, perché abbiamo cominciato tardi, sì, ok, vabbè. Va buon. Quindi direi a questo punto abbiamo parlato di tutto. Se non avete cose in chiusura, proporrei per questa volta di chiudere. E non mi viene in mente direi niente. Che possiamo chiudere questa puntata. Giuliano, ci dai i tuoi contatti ai quali gli ascoltatori potranno porti quelle 8 milioni di domande? Sì, e dunque, un canale che preferisco usare è Twitter. E l'account è @ccxx72. Ho un sito sempre in costante sviluppo e quindi un po', però dove seguo molto l'SP8266 con tutti e trovate tutti i tweet interessanti che vengono fuori su Twitter su vari progetti, varie cose, e il sito è ccxxerie, come fesserie ma con ccxx, .blogspot.it. ok. Il resto dei miei contatti lo trovate su aboutme / Giuliano Pisoni. Ottimo. Molto bene. I nostri contatti invece non cambiano mai. Ci potete trovare su Twitter a @gcookiecast. Ci potete scrivere una mail a gcookiespodcast@gmail.com. Potete venire sul nostro blog, e a questo giro ve lo consiglio perché ci saranno un sacco di link di un sacco di cose di cui abbiamo parlato. Yes. gcookies.github.com. Io c'è la nostra pagina Facebook, e se non avete fatto il mi piace, fatelo, GCookiescast. Ci trovate su Google Plus nella community GCookies Podcast, e poi ovviamente potete scaricare il nostro blog da iTunes, e se lo fate lì e ci mettete una recensione, noi siamo molto, molto contenti. Direi okay. Che con i contatti li ho detti tutti. Mario, vuoi parlare tu della cosa nuova? L'ultimo punto, perfetto. Allora, dato che c'è tra IoT e robe varie, abbiamo anche accennato a Raspberry Zero, come tutti voi ben sapete è introvabile, cioè quei pochi fortunati, tra cui noi di GeekCookiecast, confermo, ce l'ho da ieri. Esatto, ne abbiamo un paio. Dato che noi siamo molto buoni, Francesco ne ha uno, io ne ho avuti addirittura ben due, abbiamo pensato che, visto che voi ascoltatori siete molto appassionati di cose nostre, di cose nerd e del Raspberry, di metterne uno in palio. Quindi abbiamo un kit, quindi non solo il Raspberry, compreso da Raspberry Zero, adattatore HDMI, cavo micro USB USB e una serie di header pin, e casomai metto anche un paio di cineserie nel mischione, che mettiamo in palio. Allora, noi vorremmo fare una piccola caccia al tesoro, quindi non in questa puntata ma nella prossima. Se voi avete un po' di, come dire, perspicacia, andate a vedere nel file della prossima puntata e troverete un indizio per iniziare la caccia al tesoro. E questo è l'unico indizio che posso darvi. Quindi dalla prossima puntata si parte, e la puntata successiva dichiareremo chi è il vincitore dell'unico kit che abbiamo. Quindi sempre se qualcuno vince, ovvio, è riuscito. Se no, sì, per ce forza. Lo teniamo e lo brucio, gli mando le foto di me che brucio. Come no, uno... magari me lo mandi, dai, facciamo così. È più divertente così. Comunque, diciamo, chi riesce a finire questa caccia al tesoro si aggiudicherà il kit completo, che non è, cioè, stiamo parlando di forse 10 euro in tutto, però è una cosa che non si trova e ci fa piacere dividerla con i nostri ascoltatori. Quindi chi lo vincerà poi ci dividerà con noi anche le sue esperienze. Potremmo fare una puntata con l'ascoltatore che l'ha vinto e ci spiega cosa vuol farne, robe del genere. Ok, quindi dalla prossima puntata si parte, e buona fortuna a tutti. Molto bene. Perfetto, direi quindi. Poi che possiamo ricordare la questione dei link su Amazon. Se voi comprate tramite i nostri link su Amazon, voi non spendete niente in più, ma a noi arriva una piccola percentuale. E questa cosa del Raspberry Pi 0 è stata acquistata con i soldi di Amazon. Esatto, quindi con i vostri soldi. No, se comprate soldi. Più su Amazon, possiamo fare qualcun esatto. altro di questi concorsi. Vi ricordo che la sigla è presa dalla piattaforma Jamendo, il gruppo è i Pornophonic, e la canzone è Sad Robot, che è rilasciata in Creative Commons. Vi ricordo il codice sconto per la scheda UU2, che è Gcookies, tutto maiuscolo. Sconto del 10% e spedizioni gratis. Scade a febbraio 2016. Ci siamo già azionati appena Michelangelo ci risponde per capire se ce lo possono estendere, diciamo. Okay. Più in là. Direi che è tutto, Mario. Secondo te? No, direi che tutto, quindi... No, ci siamo dimenticati di una cosa fondamentale. Ringraziamo tantissimo Giuliano. Grazie a voi. Grazie a voi per l'ospitata, come si dice. Ma grazie a te di esserci. E di aver fruito un sacco di informazioni che tra l'altro erano un sacco di cose che non conoscevo, quindi è stata una puntata istruttiva anche per me. Direi che si può passare ai saluti. Da Francesco un buona serata, buon proseguimento. Da Mario da Berlino un buon tutto. Da qui dalla Sardegna un buon tutto a tutti e buon proseguimento. Ciao. Ciao.